Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Processo Anton Veneta, Brancher rinuncia al legittimo impedimento e si dimette. Berlusconi, condivido la sua scelta, l'opposizione canta vittoria. La Turchia chiude lo spazio aereo ai caccia israeliani, chiedono scusa per la nave assaltata, dice Ankara, e a Venezia passeggeri in rivolta in 60 da ieri aspettano all'aeroporto. Buongiorno dalla redazione da Laura Bettini. Il ministro Brancher quindi ha rinunciato al legittimo impedimento, si è dimesso, addio quindi al Ministero del Decentramento e della Sussidiarietà. Così ha annunciato lo stesso esponente del PDL durante l'udienza a Milano del processo Anton Veneta, processo in cui ha chiesto il rito abbreviato, ma ci colleghiamo con il Tribunale di Milano, Raffaella Calandra. Sì, annuncia le sue dimissioni e rinuncia al legittimo impedimento. Dopo soli 17 giorni per Aldo Brancher tutto finisce laddove le polemiche erano iniziate, nel Tribunale di Milano, al processo per la scalata Anton Veneta, e finisce con queste parole. Ed in ogni caso anticipo in questa sede la mia decisione irrevocabile di dimettermi da ministro, proprio al fine di consentire un rapido chiarimento della vicenda che mi riguarda. L'ex ministro per il decentramento conferma dunque quello che era già nell'aria nelle ultime ore e in una breve dichiarazione spontanea attacca quelle che definisce le indebite strumentalizzazioni e speculazioni sulla sua scelta di invocare il legittimo impedimento subito dopo la nomina. Pensavo di dover privilegiare per un breve periodo gli interessi del paese, spiega, sottolineando di essere venuto oggi in aula per difendere la sua innocenza. In questo processo stralcio per la scalata Anton Veneta, Brancher è accusato di appropriazione indebita e riciclaggio per alcuni versamenti di circa 1 milione di euro provenienti dalla Popolare di Lodi nell'era Fiorani. E l'ex numero uno della BPI era già in tribunale questa mattina pronto ad essere interrogato, ma la scelta del rito abbreviato incondizionato esclude l'ammissione di testi e quindi già il prossimo 28 luglio il giudice Anna Maria Gatto potrebbe emettere la sentenza per l'ex ministro, mentre una nuova corte giudicherà in rito ordinario la moglie. E per ora dal Tribunale di Milano è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Sono state immediate le reazioni politiche a queste dimissioni e per darcene conto Andrea Viali. Sì Laura, uno dei primi a commentare le dimissioni è stato il Presidente del Consiglio Berlusconi, che in una nota ha detto di aver condiviso la decisione di Brancher. Secondo il Premier si tratta di una decisione presa per evitare il trascinarsi di polemiche ingiuste e strumentali e che dimostra sua volontà, la volontà di Brancher di operare solo per il bene del paese e non per interessi personali. A convincere Brancher a fare un passo indietro sarebbe stato, secondo indiscrezioni, proprio Berlusconi, ma lo stesso chiedevano, lo ricordiamo, anche i Finiani, che ora invitano il Premier ad ascoltarli anche su intercettazioni, manovra e vita interna in generale del Popolo delle Libertà. Ora finiranno le polemiche, il fuoco amico e quello nemico, invece l'auspicio del ministro Matteoli, sempre dalla maggioranza. Dopo le dimissioni non ci sarà il voto sulla mozione di sfiducia nei confronti di Brancher, che era stata presentata da Partito Democratico e Italia dei Valori, che ora esultano, parlano di vittoria dell'opposizione e sostengono che questa vicenda conferma come la maggioranza sia ormai allo sbando. Da Roma è tutto. Grazie ad Andrea Viali. E oggi c'è anche il rush finale per il via libera della Commissione Bilancio del Senato alla manovra finanziaria. Tra l'altro si è appena saputo che si terrà nel primo pomeriggio un incontro tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Dal Senato in diretta con noi Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, davvero ultime battute per la manovra in Commissione Bilancio. La ripresa dei lavori è prevista per le 14 con una non stop fino al via libera che potrebbe dunque arrivare nella notte o al massimo domattina. Conto alla rovescia quindi per le ultime modifiche, visto che in aula si prospetta un iter blindato, ma sono ancora molti nodi sul tappeto. Ci sono le richieste delle imprese che contestano la parte fiscale del provvedimento, in particolare gli emendamenti sulla riscossione e sulla compensazione dei debiti e dei crediti che, hanno spiegato in una nota, rischiano di creare forti contenziosi voti di carattere costituzionale di avere conseguenze irreparabili, specie per le piccole e medie imprese. Poi il muro contro muro con le regioni sui tagli da 4 miliardi è una manovra insostenibile, va cambiata, ha ribadito ieri il presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani, che a nome delle regioni ha chiesto un incontro con il premier. Sullo sfondo una situazione politica molto tesa, si è parlato nelle ultime ore anche di un duro scontro Berlusconi-Tremonti, poi smentito dal portavoce del premier Berlusconi, e quel che è certo, come hai detto tu Laura, è che questo pomeriggio i due si vedranno ad Arcore per discutere proprio di manovre. Da Palazzo Madama per ora è tutta, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Insomma, il caso Brancher, le intercettazioni, la manovra e poi il rapporto tra Berlusconi, Tremonti, Fini, insomma una settimana che potrebbe essere decisiva per il futuro del centrodestra. Diamo il buongiorno a Stefano Folli. Buongiorno, buongiorno a voi. Che cosa potrebbe accadere? Che cosa ci aspetta secondo te questa settimana? È una settimana in cui si sono sommati tutti i nodi irrisolti del centrodestra, del governo, e sono tanti, sono anche il prodotto di una certa distrazione, secondo me, con cui il vertice del governo ha lasciato un po' sedimentare troppe questioni. E adesso, stamattina abbiamo avuto un segnale, il caso Brancher indubbiamente è un segnale che va nella giusta direzione, perché serve a togliere dal tavolo un forte elemento di grave tensione, è stato un grandissimo errore nominare questo ministro, e va un po' nel senso di una riconciliazione con il Quirinale. Credo che la prima cosa che Berlusconi debba fare sia di ritrovare un rapporto positivo con il Presidente della Repubblica. Scomparirà il ministero con il ministro, che dici? Ma il ministero non è mai esistito, non c'è granché da far scomparire, ma è soltanto un passo, perché poi bisogna affrontare la questione che in questo momento tiene campo, ed è la questione economica. Ritrovare un punto di equilibrio con le regioni significa mettere in campo una capacità di sintesi politica notevole, che soltanto il Presidente del Consiglio può mettere in campo. E mentre invece il caso Brancher, secondo me, si porta dietro anche un po' una soluzione alla questione delle intercettazioni, che era l'altro elemento di tensione con il Quirinale. Quindi in qualche misura da questo versante forse si può essere un po' più ottimisti. Invece per quanto riguarda i rapporti politici dentro la maggioranza, le questioni sono delicatissime, sia per la questione economica che ho detto, sia poi ovviamente per il rapporto con Fini, col Presidente della Camera. Tutto questo nel corso della settimana. Ringraziamo Stefano Folli e ovviamente proseguiremo a seguire tutte queste vicende, ma ce n'è un'altra oggi che sicuramente tiene e terrà ancora banco, ovvero la crisi che fa stringere la cinghia agli italiani, che per la prima volta negli ultimi 10 anni intaccano le spese, soprattutto per gli alimentari. Una famiglia su tre, secondo i dati dell'Istat resi noti stamattina, ha ridotto nel 2009 la spesa per la quantità, ma anche per la qualità del cibo rispetto al già critico 2008. Si risparmia soprattutto quindi su pane, cereali, oli e grassi, frutta e ortaggi, zucchero, caffè, bevande, ma tutti i consumi delle famiglie italiane hanno sofferto, giù dell'1,7%, e con un conto mensile delle famiglie ridotto a 2.442 euro in media. Sale però ancora l'esborso per i mutui, 510 euro in media al mese. Il perché di queste scelte delle famiglie lo illustra, lo analizza Carlo Trigilia, professore di sociologia economica all'Università di Firenze, al microfono di Anna Marino. Credo che sia l'onda lunga della crisi che arriva a colpire più pesantemente i consumi delle famiglie. La spesa media mensile per le famiglie è diminuita dell'1,7%, ma soprattutto quello che colpisce è quel 3% in meno nella spesa alimentare, perché quando si toccano i generi alimentari, che di solito sono rigidi, vuol dire che si sta raschiando il barile. Questo vuol dire che cambia la modalità di approccio ai consumi degli italiani definitivamente? Quando ci si abitua poi a dover risparmiare, a dover servirsi di canali distributivi differenti, per esempio colpisce nell'indagine il fatto che si diffonde sempre di più l'uso del supermercato, non solo per l'acquisto di generi alimentari ma anche per l'acquisto dell'abbigliamento. È un po' meno presente questa tendenza nel mezzogiorno, probabilmente anche per la struttura dell'offerta distributiva, può lasciare probabilmente tracce. AFA ancora nelle grandi città. Sentiamo cosa ci racconta Marco Leonardi della Protezione Civile nell'intervista di Stefano Totoro. I bollettini di oggi confermano alcune situazioni che riguardano soprattutto il nord Italia e il centro, quindi per i prossimi 3 giorni abbiamo tenuto un allerta alto, in particolare su Bolzano, Milano, Brescia, Roma e Perugia. Al nord, in terza giornata, quindi mercoledì, ci aspettiamo un calo del livello di allerta. Mi premesso che le temperature tendono leggermente a scendere, però visto il tasso di umidità abbiamo mantenuto un allerta abbastanza elevato per quanto riguarda le previsioni di effetto sulla salute. Cerchiamo di continuare a tenere quella attenzione particolare, in particolare ai soggetti più deboli ed esposti, e per le altre persone osservare quel criterio, insomma, di evitare di fare attività fisica nelle ore più calde, usare il condizionamento senza esagerare, in modo, diciamo, saggio, e nutrire, diciamo, seguire un'alimentazione leggera, in particolare con molta frutta e verdura, e bere in abbondanza, ovviamente. Buongiorno, ancora ben ritrovati per GR24. Nella prima parte di questo notiziario abbiamo parlato del ministro Brancher, che ha rinunciato al legittimo impedimento e si è dimesso questa mattina. Lo ha annunciato egli stesso durante l'udienza a Milano del processo Anton Veneta, che lo vede imputato di ricettazione e appropriazione indebita insieme alla moglie, un processo in cui Brancher ha chiesto il rito abbreviato. Berlusconi, immediato il suo commento: condivido la scelta di Brancher, intanto l'opposizione canta vittoria. E poi abbiamo parlato anche della crisi che ha fatto stringere, per così dire, la cinghia agli italiani. Per la prima volta negli ultimi 10 anni sono state intaccate le spese, soprattutto per gli alimenti. Una famiglia su 3, dice l'Istat, ha ridotto nel 2009 la spesa per la quantità, ma anche per la qualità del cibo rispetto al 2008. Ed ora parliamo di viaggi, di tempi di viaggi, di estate. A Roma è stata presentata oggi, tra l'altro, la joint venture tra Alitalia, Air France, KLM e Delta. Il nostro piano industriale approvato a maggio non prevede aumenti di capitale, ha ricordato l'amministratore delegato di Alitalia, Sabelli. Il secondo trimestre del 2010, ha detto sempre Sabelli, è stato molto positivo, con una ripartenza del mercato. Questo ci fa chiudere il primo semestre in buon miglioramento sul primo semestre del 2009, in coerenza, dice ancora Sabelli, con gli obiettivi del piano industriale, il raggiungimento del break-even. Ma a proposito di viaggi aerei, si cominciano a registrare le disavventure di molti passeggeri. Tra i tanti, c'è stata alta tensione a Venezia, dove una 60 di passeggeri sono stati bloccati da ieri pomeriggio all'aeroporto ed oggi hanno inscenato una rumorosa, per così dire, protesta. Alla fine, verso le 10.30, è ripartito per Lione a bordo di 2 autobus. Il gruppo di turisti che ieri sera è rimasto bloccato all'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa del maltempo. L'aereo della EasyJet, che doveva ripartire per Lione alle 18 di ieri pomeriggio, non è atterrato a Venezia ma a Verona a causa delle cattive condizioni atmosferiche. In assenza dell'Aerobus, il volo è stato cancellato e i 140 passeggeri, per lo più giovani turisti francesi, hanno dovuto decidere sul da farsi. Molti hanno optato per soluzioni alternative, mentre una 60 si è attrezzata per dormire in aeroporto. Questa mattina la compagnia low cost non aveva ancora risolto il problema e la tensione è salita alle stelle. I francesi, esasperati, hanno bloccato i varchi di sicurezza del Marco Polo, impedendo così l'imbarco a tutti gli altri viaggiatori dello scalo. Sono volati grida, spintoni, insulti e anche qualche cazzotto. Poi è dovuta intervenire la polizia, che ha sedato la mini rivolta estiva, fermando anche 2 turisti che sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Solo la notizia che la EasyJet aveva predisposto 2 autobus per riportare i clienti a casa ha calmato gli animi, a quanto pare senza ulteriori conseguenze per gli altri voli dell'aeroporto veneziano. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Chissà come si comporteranno questi passeggeri di Venezia. Intanto le compagnie aeree si interrogano su come affrontare le situazioni di emergenza e di disservizio. Se ne parla questa mattina a Roma. Chiara Di Michele in diretta con noi. Sì, buongiorno. Questa mattina a Roma si è discusso di trasporto aereo e tutela dei passeggeri. Il convegno si è reso necessario, in particolare dopo l'evento dell'ormai famosa nube vulcanica. Lo ha spiegato il presidente di Assa Aereo, Rattazzi, che chiede che il costo di un evento di forza maggiore come quello non si scarichi integralmente sulle compagnie aeree in termini economici. Va quindi rivista la legislazione in materia. Sul tema rimborsi è intervenuto anche il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, secondo il quale i rimborsi vanno parametrati al costo del biglietto aereo. Riggio ha poi sottolineato che il sistema del trasporto aereo si è infragilito e deve esistere un sistema di sana concorrenza, per cui non si possono spingere troppo in basso i prezzi dei biglietti. Da Roma è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Di Michele. Una legge che regoli la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, misuri e certifichi l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali e leghi l'efficacia di un contratto all'approvazione dei lavoratori attraverso il referendum. E questo è l'obiettivo a cui punta la FIOM con una legge di iniziativa popolare per la quale ha raccolto 100.000 firme e che oggi consegna alla Camera. Il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini, al microfono di Maria Chiara Grandis. Il secondo aspetto della legge riguarda l'approvazione degli accordi. Noi su questo diciamo che una volta che i sindacati che hanno una rappresentatività certificata firmano degli accordi, siano essi aziendali, nazionali o interconfederali, la validità per essere tale deve essere certificata con un referendum da parte di tutti i dipendenti e quindi che gli accordi sono validi solo se votati da tutti. Noi quando abbiamo predisposto questa legge eravamo a febbraio e quindi non pensavamo di trovarci di fronte a quello che è avvenuto a Pomigliano. È chiaro che per noi è normale che i referendum si possano fare su contratti normali, non che deroghino dalla Costituzione, dalle leggi, perché questo secondo noi rimane un elemento illegittimo e accordi che vanno sotto la Costituzione, sotto la legge, non sono da fare perché i sindacati non hanno nemmeno diciamo così, la titolarità di negoziare diritti che sono dei lavoratori che non sono a loro disponibili. Andiamo all'estero, si inasprisce la crisi tra Israele e Turchia provocata dal blitz contro la flottiglia di attivisti pro-Gaza che il 31 maggio costò la vita a 9 cittadini turchi. Turchia e Israele sono di nuovo ai ferricorti. Questa mattina il ministro degli esteri turco, Ahmet Davutoğlu, è tornato a ribadire quello che il paese della mezzaluna dice ormai da un mese. Se non arriveranno le scuse ufficiali dal governo israeliano per l'attacco alla Mavi Marmara, che stava a viveri sulla striscia di Gaza e sulla quale sono morte 9 persone, allora la rottura tra Tel Aviv ed Ankara sarà totale. Il ministro ha anche confermato una notizia che il premier turco Recep Tayyip Erdogan aveva anticipato la settimana scorsa, ossia che la Turchia ha deciso di chiudere il suo spazio aereo ai velivoli israeliani, per il momento soltanto a quelli militari. I rapporti tra i due paesi, ex alleati storici, sono ormai deteriorati da tempo, almeno dal 2008, quando con l'operazione Piombo Fuso Israele, per rispondere a una provocazione di Hamas, attaccò pesantemente la striscia di Gaza. Un'azione che il premier Erdogan denunciò in Mondovisione durante il World Economic Forum del 2009. Il muro contro muro sembra essere destinato a continuare. Fonti vicine al governo di Tel Aviv questa mattina hanno fatto sapere che Israele non intende scusarsi e in molti nel paese della mezzaluna si chiedono se questo sarà l'ultimo atto nelle relazioni tra due nazioni, un tempo alleate storiche. Marta Ottaviani, GR24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. A sentire parlare di crisi di relazioni, addirittura di rottura, francamente mi preoccupa. Questa la reazione del ministro degli esteri Frattini rispondendo appunto ad alcune domande dei giornalisti in relazione a queste tensioni di cui abbiamo già sentito in questo servizio da Istanbul tra Turchia ed Israele. Il ministro così appunto si è espresso: preferisco parlare di argomenti che guardano al futuro, ha aggiunto, piuttosto che veder creare conseguenze certamente gravi per l'intero equilibrio medio orientale. Intanto Israele ha preparato la lista delle merci il cui ingresso per motivi di sicurezza non sarà consentito nella striscia di Gaza e l'elenco dei progetti di sviluppo che sono stati invece approvati. Questa decisione è parte delle iniziative intraprese da Israele per alleggerire la pressione su Gaza, iniziative intraprese proprio in seguito al raid contro la nave di attivisti filo-palestinesi del maggio scorso. In Polonia il candidato del governo alle presidenziali, Bronislaw Komorowski, ha vinto le elezioni, sarà il nuovo presidente. In base ai risultati ha ottenuto oltre il 52% dei consensi contro il 47,4% dei consensi dello sfidante Jarosław Kaczynski. Già nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato della manovra economica e di tagli, ora ne parliamo in ambito culturale. I tagli alla cultura previsti da questa manovra finanziaria mettono fortemente a rischio eventi e mostre anche nelle amministrazioni locali. Le città più piccole rischiano una morte lenta. Si discute soprattutto di questo domani all'Assemblea Generale di Federculture. Le preoccupazioni del presidente di Federculture, Roberto Grossi, al microfono di Adriana Fracchia. Il timore è che tagliando i rami secchi dell'economia e anche ciò che non va nell'ambito della cultura, in realtà si penalizzi chi produce la parte attiva della cultura e dello spettacolo. Con questa manovra si colpisce l'intero sistema di promozione e anche di produzione della cultura. In qualche modo facciamo un passo indietro di 50 anni a danno dell'economia e della competitività del paese, questo è evidente. Ecco, si parla di tagli dell'ordine di... Ci sono dei tagli direttamente sul Ministero dei Beni Culturali e sono 58 milioni di euro per 3 anni, dei quali 50 milioni proprio sul capitolo della valorizzazione dell'arte e della cultura. Già questo è un segnale. Poi ci sono dei tagli che incidono direttamente sulle regioni, i comuni e le province, sono cifre elevatissime, poi ci sono dei tagli proprio direttamente sul settore della cultura e allora il problema è che noi con questa manovra colpiamo indifferenziatamente le cose che vanno e le cose che non vanno. Quale appello si sente di fare al governo? Di considerare la cultura non un accessorio, un qualcosa di superfluo, ma qualcosa di produttivo, quindi selezioniamo gli interventi sicuramente, grande senso di responsabilità, ma non demonizziamo e soprattutto non penalizziamo quella vitalità che viene dalla cultura. L'Italia è il paese della cultura e del paesaggio, guai in una prospettiva soprattutto di sviluppo, di rilancio dell'economia, rinunciare a questo settore che comunque vale rispetto al PIL oltre il 2,5%. La scure si è abbattuta anche sulla Milanesiana, in programma da oggi nel capoluogo lombardo. L'ideatrice e curatrice della Milanesiana, Elisabetta Sgarbi, sempre al microfono di Adriana Fracchia. Hanno influito nel senso che i tagli sono stati effettivamente pesanti, cioè sono stati circa del 35% rispetto al budget complessivo, sia considerando i tagli delle istituzioni che sono stati pesanti e anche i tagli degli sponsor privati. Per quello che riguarda il programma, credo che abbiamo fatto degli sforzi immani per restare all'altezza di quelle che sono state le precedenti edizioni, siamo all'undicesima edizione. Certamente c'è qualche premio Nobel in meno, ma non credo che sia necessario avere la qualità solo se è griffata, per cui ci sono tanti scrittori, c'è Don Wislow, c'è Tiruel, c'è Jonathan Coe, ci sono Rushdie, Qureshi, c'è tanta musica, c'è molto cinema e di qualità. E quindi direi che il guadagno è stato nel fatto che abbiamo diffuso un programma nella città, ci siamo allargati in altre sedi, avremo dei concerti nelle piazze, abbiamo più viaggi in tram con gli autori e quindi c'è un grande fermento e credo che la Milanesiana resista e voli comunque molto in alto. Per lo sport, i mondiali di calcio, lo sapete, anche oggi non si gioca. In campo torneranno per prime domani sera Olanda e Uruguay a Città del Capo. E invece si pedala in Francia. Ieri Alessandro Petacchi ha strappato in volata la prima tappa. Oggi percorso tutto belga per il Tour de France. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Buongiorno, esattamente da Bruxelles a Spa, 201 km, pioviggina, cielo coperto, c'è già un'azione di attaccanti con l'italiano Francesco Gavazzi nella fuga d'attacco, per il resto niente da segnalare, solamente grandi festeggiamenti da parte anche dei colleghi ad Alessandro Petacchi che dopo 7 anni è tornato al successo al Tour de France, assolutamente felice, gli hanno dovuto raccontare ieri, incredulo, che a premiarlo sono stati niente meno che il re del Belgio Alberto II, Bernard Hinault e Eddy Merckx, e scusate se poco, è tutto da Spa. Grazie per Augusto Stagi, è tutto per questo GR24 che è stato curato e condotto da Laura Bettini, in assistenza Stefano Totoro, in regia Paolo Corleoni. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto, prossimo GR alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.